Ari, mebbe. C'è più nessuno, bu. Ga. Ari, mebbe. Niente, non sai cosa è successo, ma sì. Qualche pizzico. Poca roba. No, a me non mi interessa, fanno quello che facciano quello che vogliono, a me non mi interessa, non mi intrometto, me la putti nuda. Basta una volta che a me. Come vi siete lavorando? Non la so di vedere, poi mi comprendi, cosa fate? Stanno facendo quei turni, dai. E gli occhi, dai, stanno. Qua c'è una recinzione, una casa, cosa? Stanno facendo degli appartamenti. Qua la tassa, lì. Qua, c'è una passata, è un cantiere di passare. Ho capito. Adesso vediamo domani. Il gioco è un e quanti siete? Ma adesso siamo a due. Come si chiama lui? Ma il curatore oppure o l'impresario? Chi sul ti paga? L'ultimo salario. E il curatore invece? Il curatore si chiama Gian c'era la pista, c'era Marco, c'era Gian. Prima appunto era cosa, sto lavorando con me, tutta fatta. Gianni, una panna bianca c'ha per caso? Sì, ma appunto blu. Non è blu. Ma se lavora, sta lavorando con me, mamma mia, per carità. Al comune, mamma mia, va. Non si butta di nulla, si butta la stava, cariava. A te ridassi, e mi farsi le balle. No, tanto che è partita. Anche lui un caso era abbastanza tutta fatta, abita giù a per girare per la prezzetta, capito? Magnaio, ho un attore. Un attore? Già lo conosco. Sono un mio amico, di che stiamo fatta. Lo faccio per lui, fratello, tutta fatta. Ia. Allora, sono abbastanza tutta fatta. Fatto, diciamo, il percorso, avevo fatto cose che avevo fatto con voi, io ho due capite, mi tirava una mano anche a me. A cavallo, a gariola? A cavallo, una gariola, a mano lo facevi, o alla bettoniera? Mano a mano. Tu, non sei cos'è che qua ancora, ma non ha attaccato la corrente di un cantiere. Senza mangiarsi, non fa male. Vabbè. Comunque ho fatto aumentare. È 45 euro finale. Insomma, deve essere da andare bene, sono un po' più lo stesso. Insomma, manovale. Prende dai stifi di fede più manovale che il muratore, si ti vidi. Allora, il muratore non male, quello che stava lavorando con me, prende 60 euro. Allora, al comune, ok? Ma non vale prende 40, ricordo, 40, 42 mi sembra, 43, ma non vale, il muratore prende 49 euro. Dove sono fatto questi 4 mesi? Fatto di bombardo, Se un posto di lavoro, se si può fare, se si può fare, se si va dentro, se si può fare, se si può fare. Io mi sono fatto l'affare, come? Mattoni, i campi, due mattoni, come si chiamano, quelli di marciapiede comunque, culo, vabbè. Mi pure mi faccio la semplice di impasto, mi fa la prima attra di guerra, 3, 4, 5. Salzavo la matta del saltello e me li cambiavo. L'ho fatto anch'io, l'ho fatto con un altro impresario, l'ho fatto su via Budapest, l'ho fatto di fronte alla C. Questo Pietrini, mamma mia, mattano in sveglia, un giorno sono salvati, sono anche bagnati, come il problema, no? Pazzo, arrivo a casa, c'avevo tutta la mare consumate, sono tutti i vasi animali, a fine di prenderli, si lasciava sopra la mano, la casa l'ha tratta, ma la portare lì a tutti i dini, ma che ero lì, allora, ci ho messo dei volanti, diciamo, la televisione, non li fa niente. Ma la fissata, io buco una parte e dall'altra, perciò c'è un piano, no? Porta TV, e l'ho messo dietro, una da parte e una dall'altra. Boh, mi si dice, no, vabbè, che problemi crea. Quale problema crea? È Claudio, che titolo ha? Lain, no. È Pacchetto. No? Dove c'è gente al vado? Vabbè, certo, ma ho provato a fare un giro di canali, non vedo più, non lo so, ma chi no, un tempo là si poteva fare qualcosa, ma adesso un cazzo non si può fare più nulla, chi non vede nulla, poi capita ogni tanto si fanno due chiacchiere rapportante, non per le balle. La gente non lo capisce. Non lo capisce no, perché la radio presa che frequenta non si sa più, ma in tutto non si sa comportare. Seconda cosa non ho montato, è modulare, non va bene, è questa, perché è altro, si sta parlando un canale, non riesce, non vuole essere interrotto perché se no cazza, e dunque è quello lì. Vabbè, io ripeto, mi divertivo tanti anni fa, ma un sacco, ci organizzavamo, se vieni a vita, io vieni, 5, 6, 7, 8, 10 amici, a farci caffè, una volta siamo andati in, non mi ricordo, una quindicina di persone, poi qualcuno ci voleva invitare il caffè, vabbè, dopo arrivati lì a quel bar che si attiva di, come giri, no, prendere la carica, non so come si chiama quel bar, comunque invece anche la sua, va via 4.000 franchi, tutti gli altri cusetti, dice, e mamma non me ne ha voluto dare altri, e se li vuole pagare la vita a tutti, in 15 bastoni erano. Tutti hanno accusato un racchia. Quando mi ha ricordato allora, la prima prima passava di me, non era visto, poteva anche uscire, no? E magari qui si sbagliò. Cioè, allora quanti anni? Tre bottiglie anche? No, neanche. Neanche tre bottiglie. Anche una bottiglia in 6 persone. Oh, lui. Ma perché sì? Salite una cosa, prima del passaggio arrivato salite. E come si chiama il bar, bene, no? Non mi ricordo. Va bene, tu forse a corso, a motorizione, capito? situazione, sì, lo so. Non mi ricordo come si chiama quel bar. Ah, lo specchio. Vedi, l'altra volta l'ho perso. C'era questo ragazzo. Si chiamava... aspetta, Sirio 2, però la baracchino però non fa cogliere, e c'è un mico di un cazzo, questo qua faceva un po' male, no? E gli ha detto, questa qua ci devo regalarla. E qualcuno fa, sì, vieni, c'è dentro, lo prendi. No, mi sono messo d'accordo con questo qua, siamo ad appuntamento e siamo usciti a casa di Falcone. E gli ha detto, butta la porta qua. No, bussa tu, no, mi fa dividere a me, bussa tu. E dai, bussa, no, bussa tu. Vabbè, prendo il busso io. Chi è la madre questa? Signora, c'è Paolo? Apre la porta. Cosa volete da mio figlio? Cosa volete? Andatevene via! Faccio una guerra in faccia. E ci siamo andati. Per carità, per carità. Più bello era quando... quando... ero da un appuntamento io. Mi porto in zona con la banda. Allora, un appuntamento... un giorno su tutti i colori, magari così mi ha detto Luca Pugioni, io mi faceva anche Luca Pugioni, però a sapere il mio cognome, io ho detto un cognome così a caso, no? Lui si era fissato, no? Prende qua, mi ha detto il corte di Cruder e gli ho detto, vabbè, io ti trovo, ma poi non puoi picchiare cos'altro, che una persona gente arresta. Io ho detto, vabbè, il giorno che ti trovo ti taglio, te ne taglio le gambe. Tutto figlio di puttana, di tutti i cuori me l'ha detto. Tu mi... ci metti la faccia in culo, cosa del genere. Mi ce la scendi, vieni. Un giorno l'ho trovato. Parla adesso. Parla adesso, ma con bocca a becco. Parla adesso. Non so, dai, poi parlava, no? Bucava baciando, prendeva le mani e si rimattuggiava, no? Non lo sai che io scherzo, no? Non ti permettere più, poi, non ti permettere più. Vabbè, eh? La prossima volta, che? Mi dici, no, vuole parlarci, scendo, e sono affari tuoi. Ma come ti appunta, al tempo di arrivare a casa, no? C'è un baracchino, mi ha detto dopo di parlarci. Non so fare la posta, no? Ma quando vuol dire, perché se tu lo trovi in persona, non so anche a me da manco di quello che ha detto, capito? Ma, oia. Oia. Però la povera ci metteva bene a me. Cazzo, gli hanno fatto i dispetti, Addirittura. Questa persona gli ha agganciato un'antenna, salite sul tetto, una corda, l'ha legata al palo, e fa passo la ragazza dalla macchina, poi si è morta, tirata nella cassa dell'antenna. Sì, l'ho già buttata quella storia. È la volta che mi ha buttato la pallina, non è possibile. Ma di quello non lo ricordo. Era questo tipo, cazzo, che ha un bel cazzaggio. Adesso vengo giù. Se hai punto l'antenna a e tu a me non mi fai un cazzo, buffa, buffa, là là, ti prendi giù un cazzo, la ragazza non prende, malato, a me non mi deve prendere per il culo, qua là, qua mi giù e me ne butto giù a Maldini, me lo butto giù, me lo butto giù, e la allora, io sta fucilato la figata, poco la stessa, allora la... Allora sto qua che era praticamente radicata in terra. Sì, quante volte l'hanno messa a posto, quanto. ha voglia. E io, quando è entrato lui, eravamo io, Pulino, Claudio, questo era Tore Ara e compagna Bella, dai. Tore Ara Bella, la buona arriva. Ah, mai. C'era anche coso, la... non si dice ma... fatto l'ignato, il barbiere. Vaffanculo, non mi ricordo il nome. Piero Drago. Poi c'era Mandarino, Albalù, poi c'era Alboretto. Poi vabbè, per i tempi quelli. Vabbè, Alboretto non l'ho conosciuto. Però qui Antonio Cavasacchi, quello sì. E tu la ti divertente comunque là. Adesso non più. No. Troppi giravedi, troppi bisticci. Anche un casino là. Ah, io l'ho detto stamattina. Ciao, stiamo ritornando, non va bene né te. Questa gente qua che non sa modulare. Ma dobbiamo far fuori anche la strada, non sei buona a modulare tu. E non pensa il baracchino, entri, regolarmente nessuno ti dice niente, che discorso è questo? E qua la gente non ha ancora capito che ci vuole il coraggio nella radio, hai capito? E lo so, ci vuole rispetto anche. E vabbè, comunque, a me non me ne può fregare meno, capito? Facciamo quello che voglio, è interessante come stai insieme a me, dal buio. Non mi faccio i mali di Biazzi. Non vorrei niente a nessuno io. Cioè non è che. Non ho fastidio. E non voglio essere disturbato. Poi se disturbano qui devo già sguardi così chi fa. Ma sai quante volte. Quante volte è stato visto io, la gente qua. Certo che mi hanno chiamato da corso. Ho controllato il baracchino di quanto mi ho controllato il baracchino, mi hanno controllato il baracchino e mi hanno chiamato. Grazie a Dio. Anche a me una volta sono venuti, mi ha avvisato un amico, mi ha detto c'è un furgone vicino a casa tua, c'è un guardante in alta, e io ho subito pensato che era una scorradio. Sono venuti e mi hanno misurato. Niente, è risultato negativo, addirittura c'è anche l'M300 collegato, c'è la Lafayette Texas, poi il paio di bianco sul baracchino. Niente, ho messo il cursore a zero dell'Ecco, ho trovato a posto, niente, manco nulla, se ne vanno loro per tornare a disturbare. Se lo fanno apposta a mandarsi l'elico a controllare, balle, vabbè, è quel qua, perché lo fanno dov'è? Non so, ma invece se vanno a cercare le persone, si devono cercare. E anche tutti questi tempi non lo succede. Quando cerca una persona è proprio è in regola e tutto quanto, capito? Sì, vabbè, ma non è che non vanno a cercare le persone che non sono in regola. Vabbè anche quello, però vanno a cercare le persone che non da Facebook. Non va. Vanno a cercare le persone quelle che usano radio che non devono usare, potenze, capito? Legata con il reale, tutto quanto per farci capire, capito? E si conferma. È così, vabbè, purtroppo. E gai su conto, nacchi. Ragazzi, su conto. Maria. Vabbè, ha coperto e sta giocando a conto. Ha rimasto tutto, io ce l'avevo 400. Sono sta qua. 490 milioni. Sono entrato, ha rimasto tutto. Che cazzo sto dicendo? Non ho proprio più un tiro. Ma se mi hanno bannato, se l'ha preso. Non lo so. E vabbè. pazienza, Maria Cannone, che si chiama Maria Cannone. Adesso vediamo un po'. Adesso provo a entrare se mi dà qualcosa. Non credo, eh. Ah, ecco, sì, sì, sì. Va. 2 milioni, 3 milioni, 3 milioni e 8. Dai. Via. Chi era amico che vuole entrare? Chi era amico che vuole entrare? Chiamano chi? Adesso qualcuno sta chiamando Brecco, bro. Chiamati Brecco. E cosa? Gianni Capidule? Non ci sono. E dov'è? Mores? Muros. Muros. Via. Sandro. Quello di San Giovanni. Porrotore. Vabbè, San Giovanni non è Porrotore, cioè. Ah, anche la striscia è Porrotore. Casino, Beh. Già. A proposito, il capo, quello recuperato, a puntare costa, le ho chiesto 1,35 al metro. 58? Un euro? Un euro e 60 al metro. Quello grosso? Cosa costa 80 centesimi il metro, 60, 70? Ma stai scherzando? No, non sto scherzando, Luca, gliel'ho chiesto io apposta da Torino, scusate. Da quanto viene il capo di? Sì, 1,60 euro. Non tanto a me che me lo fa un euro. Ah, mi chiedeva Claudio, Claudio parla ancora di meno. Questo, ma Claudio mi ha. Neanche 10 metri, capito? Ehi, vabbè, tolgo un parete, meno piano. Io non ne ho sentito un ridatto, poi ci sono quello grosso. Tu mi ha fatto Claudio, non ne ho altri. Non ne ho altro capo. Un fine l'avevo buttato, mi sembra, l'avevo regalato. Sì, lo so, l'altro, quello grosso. Io è il fatto che non posso piazzarlo qua, quello grosso, perché non solo per metterlo, non posso piazzare, capito, lui? Ma in realtà non te ne fai niente di quello grosso, ti vedi fare. Ma io neanche, adesso decido di cambiarlo, metto uno sottile. Io devo mettere a meno 30 metri, per mettere quello 30 metri. Sì, almeno 30 metri. Perché io ho l'antenna lì appoggiata quella là, sopra la costruzione, hai capito? Agganciata come un ricordo dove scende l'acqua. E dopo mettere il tubo per installare l'acqua, lì ce l'ho piazzata. E dunque il baracchino è qua sopra un scaffale. Io la devo prendere, portarlo e portarlo sul tavolo, capito? Si conferma. Purtroppo sì. Quando non è spazio, per esempio qua spazio non ne ho. C'è un farraggio, è grande, è casino. E vabbè, mo vediamo. Mo vediamo che fare. Se no, fregato, 2737 2G, miserabile, fregato, va. Sta fregato. Ma non a me. Che è portata che non esiste. Sì, ho detto bene, ma stai anche carte buone, nulla, to. Sono uscito. Cioè, 490 milioni da avvio, non so, pochi, no. Ma vaffanculo, che gente. E scavi dei noghi. Allora, entri noghi a vedere se mi la carta è buona. E via, per carità, per carità. E via. Vabbè, ma tu la domanda l'hai fatta. Quale domanda? Vabbè, ti stanno chiamando, lasciate il bianco, cazzo. Nessuno, a parte i becchi. A mezz'ora, a volte, molte ci ha messo. Chi è che chiama Luca? Chi è che chiama Luca? Ciao, ma a Luca stavi chiamando. Io zitto, sono zitto. Sono intervenuto perché ti ho sentito chiamare. Guarda, se ti sente Luca, io sono Equerix. Ma non lo so, chi è? Dovrebbe essere Mauro. Mauro chi? Non lo senti, sta rientrando la Berchita. Così hai detto Mauro. Ciao. Ciao Giuseppe, ciao. Senti. cambio di corso. Se vuoi mi va in fondi. Nine. Se diamo il kid da. Paolo. Paolo, se mi stai ascoltando, avvicinati, piano piano poi mi chiami, cava. Luca. A che punto sono, che cosa? Oh, ma con te la giubilata ancora. No, ma per carità, qua. Ma adesso abbassata. E a chi? Mi sa che l'ho imparato io. Ho imparato così, oggi domani, prova a oggi, prova a domani e poi impari, dai, però piano e a voglia. Una cosa, io prendendo più confitta, cosa vado? Il vecchio oppure fate il trasformatore? Cioè il suo alimentatore, non so se ti compri il portatile oppure ti compri il fisso. Il fisso va a 220 lo stesso. Oh, il portatile, io lo prendo, il portatile, capito? Ma può caricare, poi ti puoi spostare. La batteria dura più o meno un'oretta, 2 ore, dipende dalla batteria. E poi computer ti può dire, sì, ai. Da quelli bianchi che fanno vedere, capite, che sembra il coso per il telefono, capito? La basa, meia, ia. Boh. Non lo so, provo a vedere un po' quello che ti capita. Ci sono comunque anche a seconda mano, se ricerchi lì su... Vabbè, non va internet, non ti va a cercare. Insomma, se non so computer posso andare su internet. Infatti. Anche perché serve anche per il fatto del lavoro, capito? Vado senza lavoro lì, capito? Da passare. Mauro, capa, ti ascolto adesso. E magari mi ricevi, ma io non ho un po' di QRM anche, capito? Infatti qua ho detto lasciate un po' di bianco, ma se non tena nessuno. Tanto meno Giuseppe non senta nessuno. Non c'è l'antenna lui. Zitto, Salto un po'. Giuseppe. A Mauro. Quindi parlare a provare a vedere un po' il suo senso. Io non intendo lui, non voglio l'antenna, qua ti intendi tu. Mauro, prova a parlare a vedere. Ehi, ma c'è l'antenna. Dopo gli altri non lo so che antenna, lo voglio che ti dica tu. Copiato Giuseppe. Mi ha già copiato io a Mauro. Ma che zona è? Sì, va, c'è l'antificio. Negativo, discesa a saccare, ci abbiamo sentito io adesso. Non so se lui sente a me. Ciao Mauro, ben sentito. Come stai? Bene, bene, io anche se ti sento piccolino. Tu già mi arrivi abbastanza un po' fortino adesso, E se sei a Ciancaglia già mi arrivi abbastanza forte. Lo so, per sapere che tu già funziona bene. Tu mi sentite, dai. Ehi, cosa è in Vienna? No, bicicletta. Mauro! 9:30, sì, Mauro. Sono io. Tu già sei l'ultimo già di voi. Dimmi se è F50. Luca, passa per la macchina Luca. E tu hai detto che è macchina, ma vedi, una batteria a 6 paddi. Ma ecco, se è macchina, ho capito. Ho capito, ahia, per carità. Per carità, Mauro, dai un giro di caccia a vita a quel baracchino. Ma se tu vedi anche le cacciavite? Io il tuo. Ma no, lo sto dicendo, no a te. Sta girando un pochettino più. Ehi, ma lì più o meno sta? Sta più vicino un pochettino, però questa sta più vicino, non questa è niente. Non lo so, forse invece non c'era, devo poter far tutti. Vabbè, riempita la saccoccia, lo so, ecco, riempito. Immagina, però dopo tutto questo vino buono, KK. So se c'è mio fratello Giuseppe. Però boh. Ora è gai su contro. Insomma, io da commentare che posso andare quando potrei già un sacco da sotto, quindi si no come va. Prova a chiamarlo per se ti risponde. Fatta mangiare. Chiama Mauro Gianni. Già ce l'ho pulito il giorno, vabbè. E so che è arrivato al cementificio, boh Mauro. No, sono molto il cementificio. Lisa, c'è di Sardegna. È copiato Giuliani. Gianni. E lì al Cile di Muros. Io ti sento sì. Prova. È mia Vittorio. Prova. Sto provando una 68, sto uscendo. Se mi ha riconosciuto, si suppone di sì. E a Puglia. Aspetta che sto provando, faceva scarica il microfono. Lo sto muovendo, lo sto sbattacchiando il cavo. Scarica, ne fa adesso. No, è attivo, 950 sei qua. Ah? 950. Ah, sei cosa? Ho capito, sì, vicino a casa. Luca. Eia. E anche tu 950, bene meda. No, no, mi interessa, sto sbattacchiando qua il cavo, faceva. No, sì, mi sto riascoltando, non lo sto facendo. Va bene, buone cose, buona domenica, buon proseguimento e arrivederci, ciao. Ciao Vittorio, che è altrettanto, ciao ciao. Ciao Vittorio. Ciao. E già qua siamo, tutto bene, quello che va bene, quello che va male lasciamo andare male. Sì, ma ho pensato che lo chiamare. Ho capito, scusa. Positivo, ti ascolto, non c'è problema. Va bene, non ascolti tu, Giuseppe. Fate Mauro. A che zona sei? Io non c'ho il cementificio. Ah, stampa, io ti sento. Ti sono piccolo, ti riesco a tirare fuori, Guarda, sei piccolino, poco fa ti sentivo bene. La ripresi, là. Zappa, male ti è andata, vinco io, male ti è andata, 8 e vinco io, hai fatto un in, diceva 8, asse 8, io asse 10. Quanto milioni? Era 3 milioni. Ma quanto ti avevi, 2 o 3 milioni? 3 milioni, adesso sono 5 milioni. Sì, stai recuperando. Sì, ma avevo 490 milioni, baro. Lo sai, i soldi vengono e vanno. Ma non dico io, cioè una doppia coppia in terra, io dovevo guardare a Guroli, assurdo, ma rilanci alti, ma da mozzi, una doppia coppia in terra non gioco, eppure vedi, perdevo, ma c'è una mezza mafia con questo cacchio di poker. Non so, vabbè, ma come non sei, abbiamo veramente tutti, Guarda, ma non è che è roba virtuale, non paghi, capito? Ma come hai? Io a 14 devo prendere anche la casa. Bah, non so quali si ribellino. Poi è un casino, chi gioca online lo sa cosa vuol dire. E poco io, non so come capisco, non hai capito. però giocare a qualche cosa, insomma, quindi oppure a Roma Mazzetto, sapere la scopa normale, va bene, ma quello là poca più negativo. Allora, li ho vinti così, trovavi quelli che giocavano con carte di insomma, carte brutte, ecco, 2 o 2 3, 5 3, 4 2. E io ne andavo dietro e li beccavo sempre. Li fregavo sempre, ma facevo puntate da 10 milioni, 20 milioni, 60 milioni, 80 milioni. E io ne ho preso tanti piatti, tanti. Ne ho preso uno da. Il più alto era 170 milioni di sempre. Ma chi lo guarda il poker mangiato a televisione? Eia, beh vabbè adesso, vabbè non qua. L'ho visto un paio di volte quando ero giù a Platamona. Sì, bello, bello. Sai quello forse non mi prende? Sapete che lo cerco, va. Guarda, vedete, poker mangiato. E ogni notte quasi me lo guardo. Ma ne vedi tanto la roba a perdere all'istante solo da beh. Lo so, vi giocano assurdi. E vabbè, capirà, poi avere anche esperienza. Io ho visto giocare con carte da niente, prendo sui piatti, boh. E vabbè. Paolo, vabbè. Sì, sono svincolo via d'Italia, cambio. Ragazzi, sei fortissimo. Ma mi avvicino, mi sembra che non lo avrebbe più forte. Positivo, ma è vero, anche tu hai ragione. Ci mancherebbe altro. Però tu avendo un aiutino, avendo un'ottantina di watt, tranquillo, ti avrei sentito. Lo so. Ma io c'è come quella faretto là, l'ho fatto vedere a quel mio collega che ha aggiunto in televisione, era parlato. Di buscarmi dei quattro componenti piccolini nuovi, infatti ho già parlato al massimo, domani mattina gli devo telefonare per ricordarvelo, dovrei telefonare alla ditta e farsi dire quali sono, così se non ci diamo li ordina, dove arrivano, io li faccio ripiantare e vado a farli da posto dopo. Cappa, buono, se riesci a rimetterlo a posto va bene, però lo recuperi, boh. C'erano solo quegli affari lì, quei quattro affari piccolini rovinati, boh, l'ho preso di cianto, però poi mi ha detto, se c'è saltata qualche pizza, qualche cosa, c'ho il disegno del circuito, ho detto, quello è un'altra tirata, ho detto, diciamo, l'ho aggiunto io, così me lo sistema come si deve, ma ho detto, così almeno te lo usi. È fatto, ma come hai fatto a bruciarlo, non ho capito? Ah? Come hai fatto a bruciarlo, non ho capito? C'è finito la cosa, come si chiama? Il filo della ventola sopra, l'ho rovinto e l'ho schiacciato per farlo funzionare e la brucia, la gotto. Avvicinati, vabbè, boh. E vabbè, adesso farò, vediamo, intanto mi piglio una cretinata lì, quindi devo l'opera per farlo. Così almeno si trevo, io non ce l'ho, e dopo l'altro si vedrà quando lo toglie la cosa Luigi e mi piglio anche quello lì. Aia. Ora lo metti a posto. Poi è troppo caro, 70 euro. Mannaggia. Io non lo sapevo, non è che mi devono dare i soldi, se no francamente, se non mi devono dare i soldi, non li avrei comprato manco per sogno quel prezzo, ma manco ci si metteva in ginocchio. Che vuol dire su isola? A me davano sempre di 70 euro, non le do pochissimo. Infatti l'altro non l'ho preso più, quando mi ha detto 70 euro. Ah, no, lascia perdere, che se non tieni, te lo tieni. Ma è caro 70 euro. È caro sì, perché io l'ho visto via internet e costava intorno ai 40 e 50 euro, non di più. E sapevi pure a Bonni, pure a rubare, poi rubare i soldi, capito? E vabbè. Ma lo trovo... Giuseppe, non lo trovo il poker, boh. Questo digitale vuole la giornata, non lo so fare. Vabbè dai, dovrebbe essere dopo Antena 1, capito? Ma è diverso, tu li hai fatti memorizzati. No, Sport Italia, Real Time, no, quindi la 5, la 7, poi metti il K2. Una cosa di gioco. K2, no, la 7, metti V. No, c'è. Cioè, mi sembra neanche videolina, ma è allucinante. Se devi fare aggiornamento canali oppure li devi entrare da zero. L'ho già fatto, l'ho aggiornato anche tutto, boh. Ho fatto la quinta di aggiornarmi. E allora se non ti devi dare l'aggiornamento lo devi reinstallare tutti i canali. E poi quando ti dice reinstalla, se ti dice vuoi cancellare i vecchi, devi ci ricerca e devi reinstallare tutti i nuovi. Ma secondo me è un problema di aggiornamento software. Sicuramente. Non lo so. Vabbè. Tanto magari se non mai due io. E vabbè, ma se tu fai come ti sto dicendo io, reinstalla i canali, dopo te li trovi. Eccolo il poker, trovato. Trovato là. E sono abituati i chip, se va. La montagna. Guarda, hai visto che c'è come un ragazzo di Cagliari che deve andare a giocare fuori. Ma poker online? Sono il giornale di ieri, se non mi ricordo male. Che deve andare a fare una partita fuori. Ah, ecco quel tipo senza capelli, l'ho rasato, bravo ragazzo, eh. E gioca anche un carte, adesso lo vedo che scarseggia chips, però gioca con carte allucinanti, carte proprio basse, se la rischia. Mauro, che sono Mauro? E ti sento piccolo, aspetta che giro e intanto lo attacco in casa. Eia, e anche senza figlio, Ma sta arrivando a casa tua, Mauro? Via. Allora, ci stiamo bene. E adesso ti sento un pochettino meglio, dai. Via, sono arrivato a nuovo, dai. E scendo e attacco a casa. Via, buon tutto, dai. E siamo qua, Mauro. Sento 10 minuti che vado a... Pitbull. No, mica, mamma mia. Ero per la scatola. Vado a tagliare la pasta, ci sentiamo fra 5 minuti, 10 minuti. Io faccio bianco, è pronta a cenare, dunque ci siamo più tardi, dai. Ok, a dopo. Luca, ragazzi, qua sono a casa, mi risponde, capisco, quando mi sono male. Io con la residenza giusta, capisco. Paga, paga. Il telefono, controllo, mi vedono a me, a casa mia. E mi darò certamente che ho messo in posizione per la casa. Voglio vedere come c'è il problema. Ci sono altre cose. E fa posto loro. Però senza luce, sì. Come fate la notte? No? Gruppo elettrogeno, no? Non puoi fare nulla allora. Non posso fare tutto il mondo. Negativo, mentre in compagnia mi porto una radiolina con le batterie e non mi sono a te. Così è. Questo sì, come fatto, io lo devo fare. Intanto ho avuto le giornate a questi passati, infatti il mantenimento, l'aiuto, a me, se mi dirò la domanda, tanto non posso mangiare, non so, non so. Ma te l'hanno staccata la luce oppure non arriva proprio la luce? Non fa tanto, capito, perché sono cose che lì da quando ho morto mio padre, ho aspettato mio padre, non è stata più di mio padre, capito? Ah, ecco. Quello vuoi fare tutto quanto, non un allaccio nuovo, però fare l'allaccio ci vogliono più. Se non sto lavorando, devo portare lo padre. Beh, normale. Ce la fa poco chi sta lavorando. Lavoro. Io ho sempre lavorato, 30 anni a questa parte, grazie a Dio non mi sono mai fermato. Beh, ma adesso ho preso domani. Sì, sì. Fino a sera. Mattina. Ancora lì. 8:30. No. Fino a 1:30. Beh, ma ti do con il campo, sai? Cappa. Via. Cerca il campo, cerca. Sono qua, a Valdeva, c'è, no? No, io sono produttore, se lo so qua. Produttore? Per tirare... Ancora non ho capito cosa fai. E con sé. Sì, ho carico la merce, la porto a domicilio, la porto agli asili, la porto nei bar, eccetera, eccetera. Ho un ambulante, là. No, io lavoro per la CISA. Noi abbiamo gli appalti comunali, eccetera, eccetera, privati. K. Sofono, rientrato sì. Ora c'è preso la No, stavo facendo un lavoro, non so. Abbiamo chiamato, forse. Hai capito, Giuseppe? Così è. E io mi sarei procurato un gruppo elettrogeno, almeno quello. Sì, vabbè, ma ogni volta proprio per capisco mettere dentro la benzina, ma non si può passare con la benzina. Tu c'è un costo? Non so, non lo vuoi fare tu? Benzina, ma? Anzi, mi dovrei martedì, vediamo un po' cosa possiamo fare. Ma tu vivi sempre con tua madre in campagna? Ho già te frigorifero, nulla. In questo caso io sono adesso, siamo stati in supporto, capito? La famiglia si sento per controllare se sta a posto, capito? Non è che ci sto dormendo, capito? Ah, ecco. Ma se mi faccio figurare che io ando lì, capito? Io ho detto, guarda, io sono da solo, con mia madre, non ci sono più, vivo da solo, mi dà una mano un amico, mi dà una mano l'altro, un piatto qua, un piatto là, capito, no, mi dà quanti tutti. Beh, casino, no, veramente, oppure se riesco a far comprare quanto faccio il lavoro, anche a me, capito? Quello è più difficile. E loro già lo stanno a non far entrare, capito? E poi dopo una cosa loro, basta che si informano, tre mesi, dietro che sono loro, sai che loro possono fare questo, possono fare, capito? Conoscono tutti. Perché lì è questione di domande? Ma dove avevo fatto le domande? Cazzo non c'è? Io sono iscritto da 2001, fino adesso tutte le domande che ho fatto, non me ne hanno mai accettato una, scusa, perché? E all'ufficio di collocamento è iscritto te? Sono iscritto da 2001, dopo la chiusura del banco. E ci vai a vedere se sei in lista, in graduatura? Non vado, ma tanto il nome è... ma non c'è niente, io chiedo, ho fatto la fila per così dico, ho fatto la domanda, però non mi arriva mai niente, capisci? Anche lì in corso di qua. E allora come qua, sono arrivato. Poi Giuseppe stava dicendo che non c'è manco luce a casa. È successo che in campagna non mi hanno più di luce. Ma cosa? Ma se no qualche problema. Senza lavoro, Giuseppe. Ma così, come ti stai andando, Giuseppe? Per adesso sono a casa nel riposo, poi sulla razza. Ma così è? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Niente, cosa devo fare? Senza entrare, per carità, e fare macchine. Quanto macchine? Non faccio brutto, rovinami la vita, io non buono, capito? Manco per fare, manco non ci vado io a rubare per campare, capito? E cosa devi fare? Oggi non sei stato così. Due sono le scelte, o fare anche macchine, o te ne sei così. Ma io perché forse me ne così, però... a me non c'è la moneta pulita, capito? Già ne sono uscito non proprio bene, ma ne sono già fatto di stampa di culo, è una questione di mano con volto, se non voglio già devo dico verticale a gianni, cazzo, mano con volto. questa storia, ma non c'è stato, è stato dal 2001, no? La questione è, per fortuna che l'ho vista, è già vista. Cioè, uno deve cosa deve fare, se non fai travaglio uno deve stare. Deve aspettare che esca qualcosa per andare avanti. Ma adesso, grazie a Dio, un paio di giornate non adesso facciamo il lavoro, capito? Non è tanto, però sono 40 euro una giornata, grazie a me voto, come prima. Abbiamo parlato, abbiamo chiarito e adesso me l'ho messo di 10 euro in più. E meglio di nulla, cosa vuoi fare in due dì? Sono 80 euro. Ma tu li dà subito, finita la giornata. Arrivo, a fine settimana. Ma te li dati? No, è un pochetto longo. Non è longo, ho fatto 4 giorni, 2 pieni e 2 a mezza giornata. Ho pescato 130 euro. Io va bene, meglio di non avere nulla. E poi mi sono salvato, abbiamo fatto molto di là, abbiamo comprato la roba, abbiamo fatto la spesa e tutto quanto, a me ci siamo un po' salvati, capito? Non male. Purtroppo quando uno è in una situazione del genere deve andare a lavorare anche sotto costo. E cosa fa? No, non ce n'è, non ce n'è niente, non ce n'è per niente, per nessuno, capito? Il discorso è quello, non bisogna per nessuno. E cosa stai facendo di usare impasti? Impasti a mano. A mano? Già. Cazzo. Già, non c'è tanto, nel caffè non c'è luce, non c'è niente, e ti devi arrangiare, cemento, sabbia e acqua, ma comane che la damigiana lì, la posta, capito, lì ti diamo l'acqua per impantare tutto quanto, ce lo facciamo giù e portiamo su, hai capito? A caruccola. Beh, è tutto da buva. Cazzo, ma già, non c'è nulla. Ora quella a mano sta usando la caruccola, adesso quella lì. E la cosa, la bisogniera nuova, ma solo che manca la corrente, mi ha fatto una domanda, ancora non l'hanno accettata, dunque se la andiamo così. Alla primitiva. No, è certo che si basterebbe comprare un gruppo elettrogeno un po' grosso e funziona tutto, quindi. Cosa? Se le basterebbe comprare un gruppo elettrogeno un po' grande e fa funzionare tutto. Adesso, ma se questo tu non ne vuole spendere, ecco, già figurati il gatto che a pagarmi me si faccia una settimana, due settimane. Figurati se deve comprare il gruppo elettrogeno. È un disgraziato, eh. Lascia perdere, lascia perdere. Tu cazzo di dedicia una manica di ladrone. Gianni già lo sa come lavora in muratura, già lo sa i muratori come sono, poi chiede anche a cose, a pacchetto, lui è muratore, ha tanti problemi, non capisco come ce l'hanno, però deve stare zitto e tirare avanti, è il suo primo. E ne approfittano, però scusa che non ce l'ha lavoro. Se vuoi travagliare così? No. Vai, facciamo il pezzo, travagli. Tu dici che stanno passando, passando nei cantieri a controllare adesso. Ma noi diciamo che non è che stiamo proprio lavorando. Stiamo mettendo a posto, capito? Essendo a posto pronto per partire nel cantiere, hai capito? Non è che io sto lavorando. Vanno una mano così, però negativo, proprio lavoro, non ce l'hai capito. lo so. Per carità, guarda, un casino. Un casino sì, vabbè, dai. Via. E tu domani lavori? Ah. Noi tutti sparando che non piova. E se non travagliamo di più? Travagliare, via, non si mangiano. Sai che domani ha messo l'acqua, nuovamente, a pioggia, cazzo. A fanculo, alla pioggia, che cazzo che ha avuto, cazzo, in mano. Eh già, già ci vuole l'acqua, dai. È fastidioso quando lavori, però pazienza, cosa deve fare? Ma veramente a noi, capito, noi curatori, diciamo, se non ci dà la possibilità di poter lavorare, capito? Perché siamo fuori, se saremmo andati all'asciutto, al coperto, se ne sarebbe fregato le palle dell'acqua, ma infatti siamo fuori. No. Ma spero che non piova domani, no, io spero di noi, per farmi almeno la giornata normale, capito? Avanti, e avanti da io, mi sta bloccando, vi saluto. Non con quel Rix e poi me ne vado a letto, dai, vi saluto comunque cordialmente, vi auguro una buona notte e buon trabacco per domani. Ciao Gianni, vabbè dai. Anch'io tanto sono entrato 5 minuti giusto per salutare gli amici e anch'io faccio quelle ricche e già tutte le prossime, dai. Ciao, ci sentiamo. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti e due.